140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter, seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. Musica, cinema e televisione nella nostra puntata di oggi di 140 caratteri. Cinemanteo, Milano. Paolo Sorrentino è alle prime uscite italiane dopo il Festival di Cannes e si gode il successo al botteghino di La Grande Bellezza. Quando si esce dalla Grande Bellezza si esce sommersi da mille sensazioni, e questo solo per averlo visto, e invece per averlo pensato e girato, che girandola è stata fare questo film? Anche, è stata esattamente la stessa cosa. È un film impegnativo da fare, da pensare, da scrivere, da realizzare. È stato insomma molto, molto divertente, ma molto faticoso. Io leggevo un po' di tempo fa una tua intervista che hai concesso al Corriere della Sera nel 2011, nella quale raccontavi di essere stato fascinato da un certo tipo di Roma televisiva. Non c'è esattamente quello, però un certo tipo di Roma tu l'hai raccontata. Ma è Roma o è l'Italia? Devo dire tutti i mondi romani, quello televisivo è quello che mi affascina di meno. No, sono affascinato da altri contesti prettamente romani. Alcuni sono poi precipitati nel film, altri no, perché per una serie di ragioni che sarebbe lungo spiegare. Ma Roma è la capitale d'Italia e in quanto tale non può che essere rappresentativa anche dell'Italia in maniera considerevole, visto che molti non romani affluiscono a Roma proprio in funzione delle loro aspettative, ambizioni per la realizzazione dei loro sogni. Quindi, come tutte le capitali, è rappresentativa ed emblematica dell'intero paese. Quando sono arrivato a Roma, a 26 anni, sono precipitato abbastanza presto, quasi senza rendermene conto, in quello che si potrebbe definire il vortice della mondanità. Ma io non volevo essere semplicemente un mondano. Volevo diventare il re dei mondani e ci sono riuscito. Io non volevo solo partecipare alle feste. Volevo avere il potere di farle fallire. Lo stesso Jepp è arrivato a Roma da fuori, un personaggio molto affascinante sul quale non si danno giudizi morali, ma tu non dai mai giudizi morali nel film. Mi sembra già così complicato fare un film per fare pure i giudizi. No, i giudizi no. Ci possono essere delle inclinazioni vaghe verso un giudizio piuttosto che un altro, ma non delle prese di posizione così certe e severe, altrimenti si rischia di fare quella odiosa cosa che sono i film attesi, che ho sempre da spettatore un po' detestato. Un altro per intervista, mamma mia, ormai siamo un popolo di intervistati, ma non li senti, come dico sempre, a chi? Lascia stare. Ma poi sii sincero, ma chi se lo compra un libro che hai sentito La visione e le visioni, La galassia di Jepp Gambardella? Ma è un titolo serio. E in questo paese, purtroppo, per farsi prendere sul serio, bisogna prendersi sul serio, Jepp. Roma, ma che gli raccontiamo? Io ho scritto un solo romanzo 40 anni fa che non si trova neppure nelle librerie. Ma che cazzo dici? Che era un capolavoro assoluto all'Apparato Umano. Che vinse pure il coso, là, che vinse il... Oh, Bancarella. Vinter Bancarella, no? Roma, sei tanto caro, eh? Ma lasciamo perdere. No, lasciamo perdere. Sarebbe troppo presunto. No, non possiamo lasciar perdere. No, perché così mi metti in difficoltà. Perché io avrei firmato, avrei preso pure un anticipo. Quanto hai preso? 1500. Ridaglieli. Ma come? Te li do io. Ma no. Ma a proposito, ho parlato con quelli del teatro. Che lo danno per 3 sere. Ma la luce è a carico tuo. Ma chi se ne frega? Certo, questa è una grande notizia, Grandissima notizia. Grazie. Dai giudizi morali alle critiche. Le hai lette, non le hai lette? Ti divertono, ti fanno arrabbiare? Ti sei interessato un po' del dibattito che ha creato il tuo film? Le leggevo più i primi film, devo dire. Poi col passare del tempo ho sempre meno pazienza e quest'anno non ho avuto molto modo di leggerle, anche perché è stato trascorso fino a qualche giorno fa a fare interviste e poi mi sono un po' riposato, quindi non le ho lette ancora. Com'è stata umanamente questa esperienza di Cannes, più che professionalmente? Cannes è un'esperienza molto bella, anche molto impegnativa, pesante, insomma, c'è un'attenzione per quei pochi giorni molto eccessiva e quasi morbosa sul lavoro che uno fa, questo ovviamente è lusinghiero ma allo stesso tempo un po' stressante. Attenzione da parte degli italiani e non solo, gli italiani come sono stati? Sono comportati bene? L'hanno capito il tuo film secondo te? Ma il pubblico italiano, i numeri sono quelli sì che li seguo perché mi stanno a cuore. Il pubblico sembra che lo stia capendo, sì, anche quando, sia quando è positivo che quando è negativo lo capiscono. Il pubblico è molto più intelligente di quello che si crede normalmente. Concordo. Il tuo personaggio non sarebbe stato tale senza Tony Servillo, fulminante. Il cast è stato una pensata geniale, sei andato a trovare delle vere chicche. Ma molto meno impegnativo e geniale di quello che si crede, perché l'Italia ha degli ottimi attori e io mi sono limitato a sceglierli, poi a dirigerli, ma come dire, la base di partenza era ottimale perché l'Italia possiede un sacco di bravi attori. Coin Milano. Per le donne è un'amica, Charlotte di Sex and the City. Per la prima volta in Italia come ambasciatrice globale di Oxfam, Christine Davis. Assolutamente. Ho amato ogni viaggio fatto con Oxfam. Ho amato ogni singolo evento. Mi dà forza e ispirazione. Sono davvero fortunata a poter lavorare con Oxfam. Keeps me going, so I'm very lucky to be able to work with Oxfam. Quanto ti ha cambiato intimamente questa serie di viaggi che hai fatto con Oxfam? Well, I really feel like it opened my eyes to. Credo che mi abbia fatto aprire gli occhi su come vive la gente in altri paesi. Ho scoperto cose che non puoi capire finché non le vedi. Cose che non crederesti possibili al giorno d'oggi. Situazioni estreme che le persone riescono ad affrontare. Sono cose che ti danno molta forza. Ma a volte ti demoralizzano. Però quando vedi iniziative come queste di Coin e Oxfam che si mettono in piedi perché si vuole farle, non perché si è obbligati in qualche modo, quando si vede la passione delle donne italiane nell'aiutare altre donne, questo sì che ti dà la carica. È qualcosa che ti fa sentire un profondo legame tra le donne. Connecting, I feel very connected. Mamma, che bella fede matrimoniale! Dov'è tuo marito? Non è qui. Ci stiamo prendendo una pausa di riflessione. Siamo separati. Non legalmente separati, niente di legale, oh no. Ci stiamo solo prendendo un po' di tempo per risolvere le cose. Ci siamo sposati molto in fretta, amore a prima vista. Poi sono sorti dei problemi e così ci siamo allontanati per cercare di risolverli. Abbiamo dei problemi, sì, problemi di letto. Quindi adesso stiamo solo parlando e cercando una soluzione. Solo parole, nessun rapporto fisico. Credo sia meglio se ci limitiamo a parlare. E così parliamo, finché non avremo risolto tutto. Quindi, no, lui non è qui. Ah, ho capito. E ora scusa. Non parlarci. Davvero noi ti percepiamo come un'amica. Questo può servire a far passare il tuo messaggio più facilmente. I hope so. I do think that's one thing television can do is to kind of. Lo spero proprio. Credo che una delle cose che può fare la televisione sia di farci entrare nelle case delle persone, far sentire loro un certo legame. E se lo possiamo usare per buoni scopi, è bellissimo. Then it's wonderful. Siete state per anni un po' l'esempio del futile, delle gioie leggere della vita. Adesso come ti trovi in questo ruolo diverso? That's true. I guess you get, you know. È vero. A volte siamo vittime di stereotipi nei ruoli che ci offrono. A me piace la commedia, mi piace far ridere le persone, anche se nella mia vita vera ho anche interessi più profondi e qualche volta mi piacerebbe che mi offrissero ruoli più complessi. Però far sorridere le persone è un bel dono. Non posso certo lamentarmi. So I'm not complaining. Hai una figlia, cosa le insegnerai di quello che hai imparato nei tuoi viaggi con Oxfam? She's only one and a half. Ha solo un anno e mezzo e per ora non le insegno molto. Stiamo lavorando sui colori. Però spero, quando sarà più grande, di poterla portare in giro con me per il mondo, che è la cosa bellissima che ci concede il nostro lavoro. A volte me la immagino già ragazza e penso che davvero mi piacerebbe poter aiutare le nuove generazioni, fare qualcosa perché possano vivere in un mondo migliore, con più diritti per le donne, un mondo in cui le donne possano essere autosufficienti e mandare i propri figli a scuola, cose che noi a volte diamo per scontate. Avere una figlia mi dà più motivazioni nel mio lavoro. Harry, mi manchi tanto. Stare lontana da te non è servito ad altro che a farmi capire meglio quanto ti amo. Charlotte. Aspetta, non mi interessa affatto se non mi sposerai mai. Voglio solo stare insieme a te. Quindi se tu potessi perdonarmi, se potessi chiamarmi o solo invitarmi ancora a uscire. No, questo non è ancora abbastanza. Charlotte York, vuoi diventare mia moglie? Sì. Sì. Sì, voglio. Sono passati molti anni da Sex and the City, il mondo è cambiato. Mi guardo indietro e mi stupisco ancora pensando a quello che abbiamo fatto. Forse i tempi erano maturi. È difficile da dire, certo. Arriveranno altre serie destinate a fare epoca. Non so se hai già visto Girls. Ecco, vedi, Girls è il nuovo fenomeno. È bello, è per i giovani. Certo, credo che noi siamo state molto fortunate. Forse i pianeti si sono magicamente allineati. Non so se potrebbe succedere di nuovo. I don't know if it could happen now. 140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter giorno per giorno tra conferenze e presentazioni stampa. La musica nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Olivo di Strada, Milano. Di cognome fa Ruggeri, anche se papà Enrico dice che è un po' matto. Esce con il secondo CD, Il Secchio e il Mare. Prima era Pico, ora Picorama. La ragione primaria è rendermi più reperibile al grande pubblico. Infatti già, anche se da pochi mesi l'ho cambiato, già sono molto più facilmente reperibile grazie all'aggiunta di Rama al mio essere Pico. Pico peraltro non è un nome d'arte, perché comunque è stato il momento in cui ho scelto un nome d'arte. Pico sono Pico da tutta la vita. Giunto Rama, che è la settima incarnazione di Vishnu, è un personaggio interessante per l'induismo, mi ci sentivo correlato. Feci dei demoni invani metallurgici e rimedi per la conoscenza e rimedi per l'indipendenza, considerato che il rimedio universale comprobato dal partito sia provare a farne senza. C'è l'intrattenimento e va della pazienza e il resto sano finché c'è sesso e violenza. Vogliamo sulla luna, voleremo sulle stelle, ma lo faremo con un chip sotto pelle che dica se siamo malati, arrabbiati, con denti o mutilati, con credi o ammutinati. Simbolismo, letture, chiavi di lettura. Quali sono state le tue letture, le tue ispirazioni? Perché si ritrova qualcosa in ogni momento di ogni traccia. Ah, che bello, grazie. La prima cosa che devo dire è che comunque tutte le interpretazioni che posso dare sono diverse. Le ho date quasi tutte a posteriori, dopo aver scritto i pezzi. Per la maggior parte dei pezzi li ho scritti in flusso di coscienza quasi totale, quindi quasi freestyle, Joyce, no? E alcuni nascono da una parola, da un'idea. Per esempio il primo singolo nasce dal gioco di parole tra Tenochtitlan, capitale dell'impero azteco, e Tecnotitlan, l'immaginaria società futuribile che tratto nel pezzo. Altri, per esempio, Torre Fatima nasce dall'idea di accostare questi due nomi che non c'entrano niente, cioè Thor, dio della mitologia nordica, e Fatima, la quarta figlia di Maometto, due culture religiose molto differenti. Li ho uniti in una storia d'amore e i simboli li traccio dopo, ma cioè, per esempio in quel caso si può parlare dell'unione dei popoli. In altri casi è più complesso per me dare una traccia unica al pezzo, in quanto ogni singolo simbolo nasce da un delirio introspettivo, in qualche modo. In realtà parla anche di me, però cerco sempre di non filtrare quello che dico, ma di essere un canale per l'inconscio collettivo. Come l'uomo era scimmia, ma prima era ra, era Tenochtitlan, ora Tecnotitlan. Come l'uomo era scimmia, ma prima era ra, era Tenochtitlan, ora Tecnotitlan. Un disco che è tuo, ma anche pieno di collaborazioni, di link con altri artisti, anche alcuni artisti particolarmente brillanti, particolarmente in luce in questa fase della musica italiana. Come hai incrociato tutti i cammini? Grazie all'immenso, glorioso, fantastico Marco Zangirolami, che è colui che ha fatto tutte le produzioni musicali del mio disco insieme a me, a partire dai miei provini, e su alcuni pezzi proprio... partire da una sua idea, si è pensato di chiamare artisti che a me piacciono molto, che lui conosce molto bene, con cui lavora, ed è stato incredibilmente facile, sia Dargen che Danti l'hanno semplicemente fatto, anche rapidamente, per il semplice fatto che gli sono piaciuti i pezzi, quindi sono molto contento, Dargen e Danti sono tra i miei artisti preferiti in assoluto al momento. Sono più che onorato. Per compensare antiche mancanze, col secchio in mare potrai contenere la cica in sottoscala, col secchio in mare farà un mandala. Ma se secchio sotto il mare, allora mi potere. Ma se tu dovessi descrivere la tua musica a chi non ti conosce, se dovessi fare una frase su un biglietto da visita? Sto cercando di inventare un nome per il mio genere, perché il disco può piacere o non piacere, ma ciò che mi sento di poter dire serenamente è che non assomiglia a niente, che è molto particolare. Lo definirei ragamuffin elettromistico. Ragamuffin perché è il mio modo di cantare, diciamo, tra il rap e il reggae, quel ragamuffin serrato, cantilenato, no? È molto elettronico il disco, e la mistica è ciò che lo rende psichedelico, alle volte subliminale in alcuni punti. Sì, mi piace la definizione, ragamuffin elettromistico. Sai che il varco è evolutivo sotto il tuo ombelico, e Starkey spalanca dimensioni, effetto psicoattivo, ripeto il gomitolo della libido, dico spalanca dimensioni, confetto creativo, in bilico io mi purifico e lo benedico. Con la mano la tua rosa quantica, con blando coraggio toccherò, piangerò se mi pungerò, compatto la matematica. Poche settimane fa è uscito il disco di tuo padre. Io l'ho incontrato e gli ho chiesto che cosa pensava del tuo di disco. E lui pensa che tu sia un pazzo che comunque avrebbe fatto tutto di sesta sua, che ha fatto una follia totale musicale, è vero? Ah sì sì, assolutamente. No, vabbè, no. Ha detto qualche frase divertente al riguardo, cioè che in qualche modo cambierà la musica al mio disco, ma speriamo che se ne accorgano, per quanto è difficile a volte, ma io non voglio essere difficile, voglio non è mai concettuale, comunque non ci sono concetti da capire nei miei testi in questo disco. Mi piacerebbe riuscire a essere immediato, diciamo che per quanto ovviamente l'importanza che do ai testi sia grande, mi farebbe molto piacere che il mio disco fosse ascoltato senza ascoltare consciamente i testi. L'ultima cosa, voglio chiederti cosa ti aspetti dal mondo della musica, visto che comunque è un mondo che è in evoluzione totale, diverso da quello che hanno contribuito a far creare i grandi della musica italiana come tuo padre. È tutto diverso adesso. Tu come lo vivi e che mattoncino vuoi mettere in questo mondo così di cui non si conosce il futuro? Beh, il mattoncino che voglio mettere ha connotazioni spirituali, devo dirlo. Poi è il mio modo di essere spirituale è urbano comunque, perché circo una santità cittadina comunque, no? E non di andare sulle montagne. Però è il buco che c'è nella musica è spirituale, io trovo. Bisogna andare avanti sulla strada di Battiato. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri. Continuate a seguirci ogni giorno seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. 140 caratteri torna ogni domenica alle 8:30 e alle 19:30.